Mettiamo così, va. Mettiamo così che forse è meglio. Capo, adesso è c'è un preoccupa, sì. Adesso siamo già... Diciamo, la minima della potenza, ma comunque un po' fastidiosa da superare. Ti passa con l'attaccato, se dovreste mettere gioco con Gianni. Per quanto mi riguarda, in questo momento, dalla parte alta del monte, il segnale più alto, pari potenza è il tuo. Il segnale più alto, pari potenza è il tuo. Poi quello di Franco è alto quando ci dice la cavalleria. Sono scelte uguali e quindi ve la giocate. Gli altri sono tutti a livello di 10 dB meno di te e di Franco. Tutti, non ce ne serve uno. Poi vediamo quando Antonio metterà l'antenna dove deve metterla, cosa succede lì. Però attenzione che io sto trattando sempre la collinetta di Filighiddu, sto trattando sempre la collinetta di Filighiddu dove c'è la scuola, quindi poi dobbiamo giocare a carte scoperte. Antonio ha già una buona posizione di per sé. Più che ultima, perché per te è più che ultima. Se non sei mai capito dove abita, Antonio è molto ha una posizione lì micidiale. Micidiale. Tu devi contare che la mia è bassa, non è alta. Perché sarà, però è troppo bassa. Ma se la mandano troppo qualcosina cambia, penso, magari anche se non cambia, ma io ci voglio provare. A parte tutto che la voglio sollevare per il semplice motivo che sono affari dell'antenna TV di casa, perciò quello lo devo fare per forza. E poi si vedrà cosa fare. E sto macinando anche se tutto una prova, poi una prova rimane il capo grosso. Posizione buona per te, ma da questa posizione non tremo né il monte e né nessuno io. Può essere in posizione buona per te, capito? Per dentro Sassari, ma fuori Sassari non ho mai temuto nessuno io da quassù, capito? Proprio a zero completamente, non ho mai temuto né a Vittorio Giove, né a Walter di Aburi, che né a nessuno, mai, nel monte assoluto. Questa è una montagna e domina il mondo, non ho niente davanti, tutto aperto e domina la Sardegna da tutte le parti, sia in città che fuori dalla città. E non è per vantarmi, ma la realtà è quella, perché quello che ascolto io sono sogna tutto Sassari, che sia Monte Alto, che sia Monte Basso, sempre città sì, io oggi sono in periferia, però a 40 metri d'altezza. Sì, ma quello già è vero. Quello già è vero, però io dico questo, si fanno le prove a pari potenza, no, che io ne uso 5 e tu ne usi 500, no, non andiamo d'accordo. Ma la stessa cosa che tu dici una moto con una gara con me, guardi, sono avuti, tu con una moto 500 e io ho fatto una moto 50, non andava bene, mi bassi, senza un male dubbio. Si fa parità, 5 tu e 5 io per dire, no? Faccio un esempio su di te. Sei seduto qua e poi si vedrà, ci sarà a pari di potenza, ci sarà un casino, ma non capisci l'uno all'altro, però se uno aumenta allora le cose cambiano. Buonasera, ciao Roberto. Io non ho problemi con nessuno, né a parità di potenza, io spengo questa radio, metto il baracchino e non temo nessuno, neanche col baracchino, capito? Perché se tu ricevi Alghero, Santiago 3 lo ricevo 9 più 10, se tu ricevi Porto Torres, Santiago 4 lo ricevo 9, non è ancora trattato, capito? Se tu incontri la testa sciata arrivi 3, io arrivo 5, tranquillo, sereno, se tu ricevi 7 lo ricevo 9, tranquillo e sereno, capito? No, non c'è problema, perché c'ho una posizione che non ho paura di nessuno, né col baracchino né con gli HS, non ho problemi qua. Parità di potenza, mi gioco radio tranquillamente, senza problemi. A tutto il giorno Gianni, c'è un po' di giro avanti, non intendia. Cioè, erogare viaggetti. C'è una solo come ricezione, capito? C'è una come ricezione, mangia tutti, no? Non ha più problemi, né col baracchino né col... gli HS, no, nessun problema, ma me ne accorgerà anche in banda amatoriale la stessa cosa, me ne accorgo tranquillamente. Avanti Roberto. Buonasera, che ho rifatto a casa sua, sono io, è un sguardo. No, beh, da dove sei tu? Io non credo. È come il segnale, io sto parlando di Sassari, poi il segnale del paese, tu immaginati, tu di notte a me mi arriva qualche Roberto Quadrato che c'ho due passi, quindi immaginati la ricezione che c'ho, capito? E arriva 9:40 a Torino. Quindi, ma io sto parlando di Sassari, Roberto. Di Sassari non cura nessuno, ma no, cioè non me la fotte proprio non da nessuno, capito? Non me la frega niente a nessuno. Oggi in AM stavano parlando sul canale e mi pare c'era una tecola, non mi ricordo, stavo ascoltando, sto facendo cosa con D'Artagnan di Alghero, a me D'Artagnan col Di Polo d'Alghero mi arrivava 9:10 e nessuno riusciva a capire la mezz'ora che era Zelle che stava parlando col Di Polo. 9:10 con Di Polo, immaginate cosa mi arriva con l'antenna Alghero a me. Sì, Alghero non senza palla. Sì, là, io avevo capito, già Roberto, io avevo capito che avevo Di Polo, però lo avevo a radio qua, perché quando ha fatto il break era proprio a livello QRM, Santiago 1, Radio 1, quindi ho detto cerca di fare qualcosa perché qua si entra a terra, almeno, non so, fare migliorare un po' la radio, perché proprio si terra a terra. Poi ha attaccato il nostro Di Polo. Il segnale è salito a 7, 8 cioè la radio che mancava, il segnale c'era ma la radio mancava, tutto qua non ci potevo fare niente. Poi siamo passati in FM, in FM lo sentivo benissimo, era Santiago 7, Radio 5, perfetto, proprio lo sentivo benissimo. Guardate, ci arrivava Santiago 7, Radio 5, poi mi stavo arrivando 9:10. Fate il conto la differenza che c'è di ricezione che un Di Polo a V invertita, quindi la polarizzazione è verticale, non orizzontale, la polarizzazione è verticale, come la mantova, capite? 9:10 mi stava arrivando. Sì, ti credo, no? Vabbè, comunque io mi ricordo che Alghero 9:05 qua arrivava, ma io arrivavo là 9:05, 9:10, quando c'avevo un'altra antenna. Adesso vediamo. Vediamo a posto questa antenna. Dato che ti chiedo a un amico se era una mano, perché era un palo tutto unico, non è telescopico. La deve abbassare, ha detto che deve fare della pulita l'antenna. E poi vediamo. Sicuramente la terra arriverà molto, sempre molto più forte, perché tu per Alghero sei, diciamo, proprio già di fronte praticamente. Io devi contare che ho i palazzi davanti e magari sollevando qualcosa cambia, ma vediamo, poi si vedrà. Gatto, avanti Roberto. Roberto mi si è sceso a rifornire. Ma non ho problemi, capito? Ma non ho assolutamente problemi, a me mi ascolta tutte le parti. Io guarda, ti posso dire, sono negativo verso la zona, il segnale più basso che posso avere verso la zona di Santa Teresa, perché sono coperto da Ruggero. Però arrivo. Poi bisogna vedere se arrivi tu, dico tunnel, con altra gente di Sassari, no? Tipo Gianni, siamo stiamo polizia, io vado a abitare dove c'è Gianni e metto l'antenna lì, io ti faccio vedere che esco bene, molto meglio di lui, ma tranquillo che esco molto meglio di lui, capito? Perché lì ci sono accorgimenti che non sono stati fatti a regolare, adesso non so se è il cavo, se è la zona chiusa tra quei tratti, però io riesco, sarei riuscito ad evadere da quel buco, capito? Sei riuscito ad evadere da quel buco, tranquillo che sei riuscito ad evadere. E io da qua, lui che ci ha portato le davanti, io col baracchino avevo molto, molto più forte di lui. Perché? Non lo so, sì, ho visto che lui per Porto Torres, Spattamone, quella zona lì, anche per Alghero, non so, anche per Alghero. Non ne ho idea, non ne ho assolutamente idea. Perché lì ci sono dei tratti che bisogna comprimere con la trasmissione. Lui è molto basso del radio, è molto, molto più sereno, tranquillo, capito? Lì ci vuole una bella radio, non dico potenza, ma una bella radio, uscire. sera. E poi ci vuole una regia, un capo grosso che le permetta di avere un'altra ricezione e perdere quell'imponenza che lui manca, capito? Perché le regie 58 ha molta perdita, quando soprattutto ci sono ostacoli. Io immaginati che uso l'H100 che è il miglior cavo in assoluto in commercio, che costa 3,50 euro al metro, quindi uso quello sulla verticale, su tutte le altre antenne lo stesso. Io cavo R1058, non c'ho niente, proprio finiti i lavori con la stazione, io ho cambiato tutto il cavo, ne ho comprato 50 a 100 metri, ci abbiamo diviso con Franco, e Franco ha dato retta a me. Infatti Franco c'ha una ricezione, io da casa sua quando vado faccio collegamenti allucinanti, cosa che a volte non sento qua, nella zona del mare, proprio perché ha dato retta a me. Lui ci abbiamo diviso il cavo, ho messo la caccetta, c'ha spezzoni, c'ha le viti tutti grossi, tutta la fedeltà, perché quelle sono cose che vanno fatte. Quando uno vuole fare una cosa fatta bene, deve usare i cavi possibilmente grossi per non avere perdite in ricezione, soprattutto in ricezione. Non tanto la trasmissione, ma quanto in ricezione. Sì. Sì. Adesso vediamo. Vediamo cosa fare, dai, poi si vedrà. Comunque 58 è un cavo, sì, va bene, funziona, ma non è sia al massimo, può essere pure con la calza, quella, non so come si chiama, la più, non mi ricordo il nome, ma è il cavo grosso, a parte che ti dura una vita. 58 ore ti dura, ho arrivato di 10 anni, questo lui ti fa una vita, una volta che lo piassi, butta e dimentichi di cambiare il cavo, ma se in realtà ti va sempre bene tutto. Ma vediamo qua, se riesco me lo cambio. Tu sei uno spezzone e l'altro, non c'è uno strumento, un attrattore di l'antenna, qualsiasi cosa attaccata con la RG58 perde già il 10%, solo in spezzoni, cavi, connettori, mentre un H100 ha una perdita dell'1,5%, quindi quasi niente, capito? Cioè ci sono 9 decibel di perdita tra un cavo e l'altro, ma vuol dire molto, parecchio. Io quando inizialmente ascoltavo, perché non mi andavo a parlare a fare, stavo usando l'RG58 perché era collegato lì, l'antenna mi sceglieva la ricezione per seguirvi, per vedere un po', insomma, come andava, come non andava. Poi quando mi sono accorto che dovevo trasmettere, che quindi la ricezione per me è importante, perché devo ricevere tutto quello che io sento nell'aria, ho cambiato immediatamente il cavo. Altrimenti non l'avrei mai cambiato, non avrei fatto una spesa di 70 euro di una matassa a 100 metri per fare che cosa, non mi sarebbe fregato niente. E invece lì ho cambiato tutto il cavo per far sì che la ricezione fosse uguale alla trasmissione, capito? Ecco, registrato, vabbè. No. Comunque sia, qua ti dico solo questo, io non ho mai visto cornacchie sul tetto, mai. Beh, ultimamente le ho viste, non sull'antenna, le ho viste praticamente vicino al campo, perché da giù non si vede, siccome il tetto è fatto a V invertita, no? E poi ho visto dove c'era una cornacchia sopra l'antenna, con l'antenna più alta che c'è quel palo lungo, e poi è scesa lì verso il cavo, quello lì si mangia il cavo, infatti per quello lo voglio mettere grosso, per quel motivo lì, perché sicuramente ce l'avrà rufficcato, e devo salire uno di questi giorni per vedere un po', avanti e brecchi. Ciao Luca, ciao Flavio, ben sentiti. Poi, ciao Robba, saluzioni, e ben sentiti anche a te, avanti Cla. Aspetta che abbasso un po', perché se no qua siamo troppo alti. Ciao Robert, buonasera, ben sentito, cordialità. così è così. Il carro è molto importante, le antenne sono piazzate bene, tutta la parte trasmissione va piazzata dopo, perché altrimenti avrai sempre perdite, avrai sempre guadagni minori rispetto a chi anche ha una posizione inferiore alla tua, perché attenzione che la posizione influisce molto, però avere un ottimo scavo, soprattutto una posizione bassa, soprattutto una posizione non dico negativa al 100%, ma negativa al 30%, quel 30% lo recuperi con una cazzoletta di cavo o una buona antenna, capito? Tutto lì, perché se tu già sai che sei in una posizione infelice e che usi un'antenna magari sì buona come Mantova, però usi un RG58, è una ricezione un po' brutta, Se invece già in una posizione negativa hai un cavo ad alta fedeltà che ti consente di avere poca perdita in ricezione, quindi alta fedeltà soprattutto nella qualità audio, molto meglio. Ok, avanti Robert. Cambiare dottori, questo è il microfono originale Intec MC100. esteticamente non è un granché, perché non è che piace anche a me, però ti dico che c'è una bellissima modulazione, io l'ho ascoltata e va alla grande, molto molto bene, ma bene, perché va bene, è una radio abbastanza forte, abbastanza chiara, e per esempio il microfono da palmo fa molto bene. Io lo prendo, ti do un'autista di un autista che viene a portarci da Cortina, ti do 20 euro l'uno, sono pagati di meno, ha pagati 8 con 20 20, quindi sono andato bene. E cosa stavo dicendo? Vabbè, ma sei arrivato poi con la palacca? Ti spiego cosa è successo, già arriva, la batteria arriva domani o dopodomani arriva, ti spiego cosa è successo, un metodo macello, comunque si già si risolve. Ah, si ha pagato. Hanno sbagliato in lì. No, non sai cosa è successo, infatti mi ha telefonato il padre di questo, è un ragazzo questo che sta vendendo, è un minorenne, infatti il padre si è preoccupato per quello. Lui mi ha fatto tutto quanto convinto che facesse tutto il padre, ha incaricato il padre, poi il padre non ha fatto niente, il padre è povero e se ne è partito in gita scolastica. Io gli ho mandato il feedback negativo dicendo che era una truffa, era una cosa che non andava bene, e subito mi ha risposto immediatamente, una settimana è passata, e ha telefonato il padre in officina, non so come abbia fatto a avere il numero mio, ma detto mi scusi tanto, c'è stato, no? Io non ti dico, siccome in questo momento non sto spedendo, solo che questo è successo giovedì scorso, dovrebbe arrivare o domani o dopo domani, infatti mi ha mandato un sacco di mail scusandosi di mandargli il feedback, di togliere il feedback, e gli ho chiesto sì, se mi scusi, se mi arriva la messa, come dico io, e il padre mi ha detto che l'apparecchio è nuovissimo, gliel'ha regalato e lui l'ha venduto di nascosto, per quello infatti non è con la vita al padre. Non spinge niente, poi si è lottato la radio. bene, via, a te si viene bene, proprio alla grande. Avanti, Robert. Ciao Mario, per sentire, vedo, sono a posto, va. Gaffa, gaffa, e tu, tutto gaffa, sì. E diciamo che piano piano, vai, a sistemare la situazione, dai. Non è prima, diciamo. Vediamo se c'è Roberto Meccanico, Roberto. Ah, sì, sì, ci ascolti, sì. Ciao, Robert. Dai, fatti girare, riprendi tu Gianni, dai, fatti girare. Ehi, caffè, ciao Roberto, come sei anche a te. E allora, Roberto, non vedi di bella Pasquetta? Vabbè, non senti? No, c'ho una scatola di qualche cosa di fuori, forse. Tante robe qua, sì, robe. Aspetta, tutto fatto, mangiate e bevuto. Gappa, gappa. Ok, mamma ormai ci è riuscita a lavorare, la giuria le balle bene, stiamo niente più bene. Avevo la negata, ci dovrebbe ingrassare. Sì, Luca, perché nel 1300 che cos'è, è piccolo, eppure non è molto più grande di questo. È un ottimo microfono quello, lascia perdere. Qualcuno lo apprezza, ma è un signor microfono quello. Ha una capsula ceramica dentro, molto molto interessante. Ripeto, sempre abbinata a radio, non a DLL, ma a radio quadrate come quelle che ho io. Io le radio che ho, soprattutto quelle basi, sono tutte quadrate. Sono tutte quadrate, non sono DLL. Quindi ci adeguano molto, ma molto bene quei tipi di microfono. Io l'ho preso perché Franco me l'ha fatto provare, va veramente bene. Adesso lui sta provando, ha provato l'orato, le CB a provare. Se va bene lo usa lui, tanto io non lo stavo usando. Tutto lì. E poi vabbè, abbiamo fatto un po' di giri di radio. Parlo di positivo. Avanti, ciao Mario, ti ho salutato, mi sembra avanti. Io ne ho salutato quelle che avevo sentito perché avevo appena acceso, finito di caricare, ho detto eccetera, vedere se c'è qualche anima, e non avevo sentito manco a Gianni e a Roberto. Comunque Roberto l'ho già salutato e ne approfitto per salutare a Gianni. Tutto qui, niente, alla grande, dai, domani si ricomincia a combattere, per quello ci riposiamo e niente. Andrà bene, dai, riprendi quadrato. Oh Claudio, non mi avevi detto, se ne è informato per quella cacciata, cosa parla adesso? No, non mi sono informato perché il giorno che è andato Franco non c'era il titolare e quindi non so se c'era e a quanto c'era. Adesso domani, altro Franco ci passava, intanto devo ritirare roba lì, ragazzi, che abbiamo ordinato del materiale della tubazione particolare per l'installazione di questa antenna che avevo notato io, che è alta 8 metri, e quindi ci serviva un telescopico particolare, quello del praticamente come quello che c'è tu della parabola, il piantone di una parabola ci serviva, capito? E quindi siamo andati lì e l'altro giorno, cioè venerdì mattina, abbiamo chiesto, però non c'era il titolare. Adesso credo che martedì, cioè questa settimana, rientri perché era fuori per le vacanze pasquali. E così chiedo. E tu a che punto sei con la sistemazione dei tubi, tutta quella roba? È tutto pronto, claro. Devo prendere quel cavo e basta, il tirante. E poi il cavo da stabilire se usare l'H100 o 213. Solo quello è il dubbio mio. E poi volevo fare una tappa per mettere sullo stesso palo, per disporre la Grand Prix, fare una specie di bifurcazione, diciamo, un tubo li metto con una tappa per disporre già la Grand Prix, così la metto alla stessa altezza della moto, ma un po' più in basso. Sì, fai con la tappa palo, come ti ho detto io. Ti preparo una tappa palo, e poi è una contatta attaccata. Capito? Ci metto la tappa in sotto, lo stesso lavoro stiamo facendo da Franco. Lo stiamo facendo a Franco, la prossima settimana facciamo anche lo stesso lavoro a Franco, perché deve mettere l'antenna, una bibanda sotto la mattola, capito? Quindi mettiamo una tappa e poi vediamo, insomma, comunque. Adesso adesso guarda, io domani mattina ci faccio vedere un po' se è rientrato il titolare, sentiamo cosa mi dice. Se no ci prende il 213, che è buono lo stesso, si prende con la bassa perdita, con la carta centrale, col polo centrale, quello unico, in rame, non c'è problema. Comunque spero che ce l'abbia, perché ormai tu ce l'avevo. Si tratta solo di sapere quanto costa e poi ti faccio sapere. In settimana, tanto mi sa che il tempo, sino a mercoledì, giovedì rimane così, a quanto ci hanno letto. Non so, dovrebbe rimanere così, quindi settimana non è che si possa fare molto. Ok, riprendi Luca. Da qua a bene ti sta arrivando. 9:30. Allora già qua la schiaccia. Vabbè, 9:30 sì qua. 9:30, pieno. Allora già sta schiacciando la qua, però si già calo un po'. Non so, riprendi Luca. Complimenti capo, questo ti fa sentire, Kappa, no, guarda, il passaggio che ho fatto prima era un bel, mi sembra 9:20 qualcosa, questo passaggio qua si è calato leggermente. Questo sarà la posizione di discesa, è normale, no? Kappa, avanti Gianni, riprenditela, raccontaci qualcosa, io l'hai fatto. Girato il costo generale, ho fatto il cielo, ho fatto lo sfondo, tutta quella giornata. Siamo andati a vedere l'entrata della vita di Berlusconi. No, ma abbiamo girato un po' e siamo divertiti. Meglio così, dai. Meglio. Hai trovato a Berlusconi, ti ha fatto dai dindini. Non c'è manuale di Sardegna, c'è un po' di cielo, ragazzi. Cioè, la Sardegna tua c'è un po' di cielo. Non ho capito, però. Mi sembra milanese in Sardegna, pensavo sia andato a Milano, e invece è sono andato a girare la Costa del Mare, che problema io la Costa del Mare? Sì, la girata era girata, sono stata anche di notte, sono stata nei locali, ma mi piace sempre, starci. Poi avevamo la casa lì, quindi eravamo avuti il schioppo per girare tutto. Cosa c'è? Perché tu perché dove sei già stato non ci vai? Difficile, una macchina sia un po' particolare proprio che mi attira tantissimo, ma la Costa Smeralda è una zona per me vista, travista, lavorato, controlavorato, quindi ci vado sì ogni tanto, ma non è che mi attira più di così, insomma, di in particolare, preferisco più andare nelle coste. Corcarrei, nella zona magari, non so, Villa Simiglio, quella zona lì che non ci vai spesso perché sono distanti, capito? Nonostante abbia lavorato anche in quella zona, San Rocco, ci andavo spesso in quelle coste lì, però non Maiacchia, tutte quelle zone lì, Santa Margherita e Pula, che sono favolose, non hanno niente da vedere con la Costa Smeralda, ma Costa Smeralda ci ha fatto anni lì a Rubia, quindi ogni andante ci avventuravamo e andavamo a passare praticamente il fine settimana, quindi non è una cosa che mi attira particolarmente. Là. Poi io ci ho passato un mese d'estate, di notte, girando quando ero figlio. Una volta mi avevo dato un mese di ferie di continuo perché ne avevo arretrato e me ne sono andato lì. Vabbè, io ho la fortuna che posso avere la casa quando voglio, di lì, quindi non c'è problema. Ho amici che c'erano la casa, quindi me la danno e io ne approfitto, ma le faccio giri lì perché ce ne ho cognato, capita lì, tutto qua. Quindi ho ricevuto fortuna andare lì, poi ognuno va dove vuole, non c'è problema. Vabbè, non c'è rifugio, sì. No, vabbè, anche noi di famiglia praticamente abbiamo lì la casa d'Olbia, Alghero, Olbia, quelle zone lì. Un Alghero, ce l'ha mia madre, ma Olbia ce l'hanno altri miei parenti, quindi non è questione di appoggio, è questione che è sempre la stessa cosa, Invece la costa della San campi aerei un po' più girabile, diciamo, cose nuove ci sono sempre a vedere là. Lì invece Porto Cervo, Porto Rotondo, va bene, meglio così, quindi ti sei divertito e hai fatto. E noi invece abbiamo mangiato e bevuto, l'alghero, sempre, mangiando, bevendo, bevendo, mangiando, mangiando, succhiando, bevendo. Avanti, Roberto. Ma voi già vi siete divertiti, invece ero in casa, la faccia vostra. No, vabbè che oggi non c'era molto da divertirsi con questo tempo. Ieri era bellina, sono andata a fare un giretto al mare, l'ultima, quello ci dorusse. Ma oggi è una sicura che fosse brutto, E ieri, no, oggi. Anche oggi, oggi era un po' costretto, però non ha più avuto niente, cioè, hanno fatto due gocce quando me ne stavo andando. La giornata era schifo, stamattina non ha piovuto, ma nel pomeriggio stava piovendo tutta la sera. Vabbè, non me la tutti non da, passato le feste, adesso c'ho il 25 aprile, e poi c'è la biglia in culo, la briglia è andata. Oh, claro, mi sembra che mi la tocca salutare. Vai, vai. Ok, ciao a tutti, dai, io me ne sto scendendo, non so se sono arrivati. Andrà bene. Ciao Luca, ciao Aia, ciao Gianni, ciao Roberto, è tutta grande la banda, ciao a tutti. Dove sci? Cosa? Dove sci, Roma? Ah, tanto sono, sono quasi arrivato. 9.40, sì. Ciao, ciao Roberto, buonasera, dai, ci sentiamo. Avanti. Ciao ragazzi, 9.40, Roberto, 38, un picchio 40, ultima radio come sempre, segnale, c'è il segnale di Roberto Quadrato, vai da te, se vuoi va, vabbè, avanti Luca. Bella, ciao a tutti, ciao ciao. Vai Luca. Ciao Roberto, alle prossime. Vai Mario, vai, riprendi, vai. Mi ha salutato Roberto, allora che avevo anche la Gianni a salutare o qualcuno altro, ma niente. E qui mi sto rompendo tutto questo Roberto, sta calutato in presso da Casona. Allora ha giocato giornata a me, qui era tutto il giorno piscia piscia, ogni tanto mollava. E niente, comunque, in casa abbiamo mangiato, bevuto, ci siamo fatti due tondi. E niente, però le mani si comincia a smaltire, si attacca al lavoro. Sì, comunque non era bella la giornata, era un po' cupa, però un po' coperta. Ma non era piovosa, c'è poi la frutta, ha prodotto quadrata, va, dove ce la continua. Vabbè, diciamo, questa settimana ero un po', c'erano problemi, diciamo, non mi di salute di mia moglie, diciamo, da sabato scorso ero sempre da casa ospedale, per stare lì vicino, le bambine malate, diciamo, tutto in una volta è successo. Comunque, piano piano si sta risolvendo la situazione, per cui adesso ritorneranno i tempi migliori. Vabbè, l'interessante è quello, adesso è uscita dall'ospedale, insomma. Se ne è voluto uccidere, dai, piano piano la cura la finisce qua, la continua, se non la finisce, la continua in casa, poi vediamo, deve andare gli altri controlli, deve fare, ma piano piano già si risolve, dai. Cazzola, speriamo che non fa niente di grave, di cosa, che si risolva tutto subito. Certo, certo, per me c'è già la tobia, quindi già. Mario, che cosa? No, andiamo praticamente la casa lì, quindi. Siamo andati, abbiamo girato, siamo andati a mare, abbiamo fatto spuntini, questo e quell'altro, siamo stati in compagnia tra amici e ci siamo divertiti. L'importante è quello, divertirsi, ti sei trovato il tempo meglio di qua, perché qua era bruttino, ieri era bello, ieri sera sono sceso al mare a fare una passeggiata, era veramente bella, una bella giornata, però oggi non si può andare da nessuna parte, tutto il giorno asciuga un po', poi una pesellina, poi riprende, eccetera, eccetera. Ti prendi tu Mario adesso, dai. E anche io ieri sono andato a fare un giro con il gringhellino e giù era ovvio il mare ieri, era una bellissima giornata, ho detto guardami, ho detto sapendo che era così, ho detto ce ne avremmo passato il giorno di Pasqua in mare. Infatti no, no, mi era preso solo la bocca, era ovvio il mare, proprio bello. Bella cosa, la radiosina, sentito l'avete i pescatori? Sì, ma io l'ho sempre detto che lì era così. Ecco, proprio al molo industriale dice la cosa più triste al molo industriale. L'ho sentito oggi alla televisione c'era il sindaco di Porto Torres, ma dice noi lo sapevamo già questo, infatti di lui è vietato la pesca. E io l'ho sempre detto, non mi credevano a me. Da già fino alla Mania Dubo con il pesce un peccato di ricca. Guarda che è una vita che c'è la biocina lì. Io c'ho amici al depuratore di Fiume Sante, si sono sempre vantati che quello che usciva era pulito, non so che cosa, pure l'altro giorno. Invece mi è esattamente il contrario hanno dimostrato. Il depuratore Fiume Sante, come è il depuratore? Quelli del coso, dell'Ene, dove c'è il coso delle acque, dove le acque che sono di raffreddamento. Sì, quelle sono reflue trattate quelle, ma non hanno nessun significato, sono di stabilimento. Il rapporto analisi è maturato dalle analisi che hanno fatto al depuratore Iniche, che è ben diverso, che poi non è neanche il depuratore Iniche perché è il depuratore dell'ACI, che è all'interno dell'Iniche tra l'altro, quindi è maturato lì. C'è biocido di carbonio, c'è diocina, c'è azoto ammoniacale, c'è ferro e c'è alluminio, quindi è dannoso per i pesci, ma soprattutto è dannoso anche per la salute, per quanto riguarda la nostra salute. Poi, comunque è una vita che ci sono state sempre queste analisi così alterate, da poi tanto questa parte i controlli erano un po' a culo di scimmia e quindi sono risultate ancora più alte, ma comunque è una vita che ci sono i cartelli dove indicano il divieto di pesca all'interno del porto, all'interno generale del porto, al polo generale del porto, perché è così. Però tutti si vanno a pescare, quindi io compreso faccio. Ognuno ci assumerà le proprie responsabilità, no? È vero, poi gli altri romani e due, se tu non rimane allora sarà due, non è così. Vabbè, naturale. Io ho detto, continua ad andare lì perché lì è tranquillo. Non andare lì all'Asia perché dice c'è anche il mercurio in mezzo. Sì, mercurio. Il mercurio è un valore più che normale per l'acqua, caro già. Il problema è quando c'è azoto ammoniacale, quando c'è diocina, quando c'è ferro, quando c'è alluminio. Mercurio è un valore molto, molto sempre alterato, soprattutto nelle acque marine, quindi soprattutto dove ci sono scarichi a livello industriale. Quindi il problema è dove c'è l'azoto ammoniacale, e l'ammoniaca è ancora più pericolosa del mercurio, molto più pericolosa, però tutti vanno a pescare, quindi vabbè, vanno a pescare. Io già non sono da ciò a parte. Le latte le ho comprate per Pasqua e il pesce ho mangiato adesso, non ho bisogno. Tra l'altro, vabbè, abbiamo fatto anche altre cose, ma comunque sempre controllato. Tutto lì. Sì, anche quello che scopri lasciato a me, lo pesca. Guarda che io ho visto a Umbia, dove prendono le acelle qua, se tu vedo che prendono le acelle non rimani più. E a me lo dico, prendono le acelle a Umbia. Le acelle, a parte il fatto che non sono acelle, e cioccolata rigarda, le acelle sono un'altra cosa, capito? Dice cioccolata rigarda, capito? Dice Sarese, si chiama Lucino. E le prendono dove ci sono gli stagni, dove ci sono le acque nere, perché loro affellano e tirano le affelle, così chiamate, la giucca, capito? Normale, perché tu hai visto lo stabilimento delle cotte, l'hai visto dove c'è lo stabilimento della Mancini, ti sei mai andato? No, lo stabilimento non ho visto che sono gli allevamenti, ma questo allora, praticamente risulta uno stagno che poi tutte le acque del porto, degli scarichi vanno alla fine dove è chiuso, capito? Qui si potrebbe mangiare la mondezza che c'è. E ho visto stamattina, mi sono fatto una passeggiata perché c'è lì un viale lungo dove avevamo fatto quell'anfiteatro, non so se c'è dove, dietro la casa ce l'avevamo lì dietro dove c'è Ocean, quelle ville che ci sono. praticamente lì ho visto uno con la Russell e con la rete dietro, stava tirando, stava detto che lui deve andare al ristorante, che non c'è un lavoro, che lo fa così, e poi vende al ristorante, poi sono inquinati, però qua la cosa gira, e io ho visto i seguenti. Poi ci sono le cozze, come se ci fossero i ricci, come a casa sua dove io ci sono i ricci e ci sono le cozze. Ma ci sono i cordoni, lì c'è l'allevamento. Ci sono i cordoni e le cozze le mandano attaccate. Poi le attaccano, le cose, le portano nella tabella e io ho visto proprio cosa succede lì. Capito? Io ho lavorato parecchio tempo a Rorbia, parecchio tempo. E quindi portano i cordoni lì, poi vanno messi dentro le lavatoviglie così chiamate, vanno tutte lavate, pulite, purificate, vanno messe a bagno per spurgarci, e quindi sono le arcelle. Le arcelle quando le prendi tu, anche se dentro c'è la sabbia, quella nera, perché loro vivono proprio nella sabbia nera, capito? Vivono sotto la sabbia nera. Se tu vai nella sabbia normale, quella bianca, non le trovi, le arcelle, vivono lì. Quindi quando vengono messi a bagno, nell'acqua pulita, loro si spurgano, capito? Si lavano automaticamente. Una volta che sono spurgate, poi vanno messe nei sacchetti e messe in vendita. Questa è la cosa principale, capito? E quello che ti ha detto quel signore è vero, perché lì ci sono delle correnti allucinanti. Dove c'è quello stagno, che c'è il ponte, c'è l'ingresso dell'acqua lì, che è allucinante, capito? Se tu sei attento di fronte al mulinello, tu vedi l'acqua che gira, ci sono delle correnti veramente, veramente forti. Tanto è vero che tutte le imbarcazioni, quelle barchette, piccoline, se stai attento, sono tutte a terra, sono tutte a secco. Perché se le lasci così nell'acqua, quelle barchette piccole che servono loro per fare gli spostamenti di quel pescatore lì da 4 soldi, se ti rimbocca la ginara dei bachi, perché lì c'è una corrente allucinante, proprio lì dove c'è l'ingresso, dove c'è il ponte, dove c'è il viale, capito? Quel viale che stai dicendo tu. No, la zona è un bel soffa, c'è poco, ma io l'ho visto, ci sono pannolini, lì tutto, qua, lì tutto. Un po' con mani a mezza e poi ce lo mangiamo già, è così, una volta che te lo ammazzi, lo punisci e te lo mangi lo stesso, quindi è la stessa cosa. Se tu invece vedi lo stabilimento della palmera, come stanno loro, non ne mangi più, capito? Io ho visto anche lo stabilimento della palmera, come arriva il tonno dentro il container, dove lo scaricano, perché lo scaricano in terra, lo prendono con la pala, lo buttano dentro questi contenitori per fare i lavaggi, lo mettono a ciclare, fare, poi lo trattano, ci mettono tutte le spezie che servono per poterlo scatturare, lo bolliscono, lasciati lì. È una cosa, guarda, allucinante. Quindi tutte le cose sono belle quando le trovi già pronte nel piatto. Quando sono pronte nel piatto sono la cosa più squisita che c'è. Se invece le vedi da dove arrivano, come si pescano, come si trattano, non le mani più, tutto lì. Vai Mario. C'è ragione, è come la birra. La birra è bella, buona, fresca, se vai a uno stabilimento dice che mettono l'orto a bagno, putrefare, suoni che gli ricaminano in mezzo e via dicendo. Eppure la birra ce la vimmo. Così che niente da dire. E il brutto è quando ci mettono un'altra roba che te la fanno mangiare per tonno e poi non è tonno, perché da poco avevo sentito dire che in mezzo al tonno mettono anche lo squalo, il pesce cane là. Guarda, la macinazione del tonno avviene tutta in un unico stabilimento, però io mi so quello, la palmera di Olbia. Praticamente sono tutti, perché la parte del tonno vera e propria, quindi la trancia del tonno, la vendono in un'altra maniera, la fanno l'essiccazione e fanno anche la bottarga di tonno, che è molto più pregiata. Tutti gli avanzi proprio della lavorazione e della bottarga, quindi la parte pregiata del tonno, tutta macinata, trattata con delle spezie e messa nelle scatolette, bollita e messa nelle scatolette, e tutta la mondezza a botte dell'odorno, c'è cioè, coda, di tutto, solo che la scatoletta è talmente veramente piccola, che quindi i pezzi che tu vedi, secondo te sono la fine del mondo, e invece è mondezza, capito? Nella birra è un'altra cosa, perché ho visto lo stabilimento di Marco Merra, dove facevano, dove c'era loro lo stabilimento della Brera, adesso non è più Brera, che lì non è tanto la lavorazione di quello che hai detto tu, ma è la lavorazione del lupo, che il lupo è la base principale, cioè la materia prima per poter fare la birra. Quella è un'altra cosa ancora più schifosa, perché la mettono in terra nei teloni a essiccare, dove giustamente qualsiasi animale ci passa sopra, ci può anche pisciare sopra il cane. Capito? La mettono in questi teloni grandi, in questi capannoni enormi, con dei ventilatori a caldo per poterla essiccare, e poi va macinata. Il lupo, quando va macinato, ha una sostanza praticamente alcolica, e quindi assieme alla, poi alla macinazione si rende questa parte alcolica, assieme naturalmente a tutte le forze che ci vogliono, e va bollita, come praticamente fa l'acqua vita, e tirano fuori questa birra, perché chiaramente va messa il gas che per l'imbottigliamento, per l'imbottigliata. Quindi sono tutte cose, se voi andate a vedere gli stabilimenti dove noi beviamo, dove noi mangiamo, sono tutti stabilimenti schifosi, compresa la Santa Lucia, compresa la San Martino, la San Martino addirittura per poter fare le bottiglie grandi, da litro a mezzo litro, sono delle provette lunghe quanto il litro, sono messe dentro queste cose calde, questi soffiatori, questi anelli che soffiano la bottiglia, e la bottiglia diventa lunga, si buttano tutte dentro questo cestino, tutte non sono esterilizzate né nulla, a un certo punto poi vanno tutte all'imbottigliamento. E se tu lo dici a me che durante che si impulla uno va pisciando. Cappa, c'hai ragione, no, c'è molto disordine, perché beh, non credo che uno vada lì a pisciare nella confezione delle bottiglie. Capito? Però, come dici tu, nessuno te lo dice, e giustamente si dovrebbe essere un pochettino più, visto che è roba che noi ingeriamo, a esserci un pochettino più di igiene, no, non dispiacerebbe. Guarda, igiene ce n'è poca, perché te lo dico con molta tranquillità, perché io lavoro nelle acque bianche, finalmente sono tornato all'impianto di potabilizzazione, prima ci ho seguito anche la depurazione, ma è un'altra cosa. All'impianto di potabilizzazione avviene un trattamento d'acqua molto, ma molto più delicato rispetto a quello che è l'imbottigliamento dell'acqua stessa. Perché gli stabilimenti, la Smeraldina, la Santa Lucia, la San Martino, io le ho viste tutte dal vivo, tutte dal vivo. Quando arrivano le provette, che sono le provette come noi, praticamente, non so se voi le conoscete, quelle provettine, ma sto parlando di un dito, di un dito, sono plastificate. Questa parte che è talmente elastica, che hanno messo dentro dei contenitori a caldo, a 90 gradi, e si gonfiano, diventano una bottiglia. Ci sono le provette piccole, corte, le provette lunghe, quelle a mezzo litro e quelle a un litro e mezzo. Queste provette arrivano in cestelli di ferro, che io a volte le ho viste anche ruginosi, questi cestelli in ferro, e vengono buttati tutti lì dentro come proprio della mondezza. E da lì l'operatore prende provetta per provetta, li inserisce tutte in questi compressori d'aria calda, chiamiamoli così, in queste caldaie, dove loro a 90 gradi si gonfiano, diventano bottiglie, automaticamente una volta diventano bottiglie, vengono direttamente dall'aria, fium, buttate in un altro cestello. E questo cestello mica serve. La bottiglia da lì viene automaticamente presa, è messa all'imbottigliamento, messa tutta in fila in un altro trasportatore e va all'imbottigliamento. Quindi di serie non c'è un cacchio. Cosa c'è di serie? Cioè che provette che camminano dentro a un casaro. Ma questo casaro vanno prese dall'operatore stesso con i guanti, non me la fottenuta. Prese e messe lì, soffiate, automaticamente soffiate e ributtate dentro un altro cervello, tutto binghioso, prese da un altro operatore su un altro trasportatore per l'imbottigliamento. E dove avete limitato la cosa? Io prendo quella bottiglia, ma era un bambino, la prende, si la fa bocca e si la vive. E dove tirile? Dove tirile? Come che andavano messe dentro un impianto sterile, sterilizzate, poi da lì piano piano messe su un altro trasportatore sterile, sempre, e messe l'imbottigliamento, lo soffiamento, quello per voi, no, da invece la sterile, io l'ho visto, non c'è niente di sterile. Cammina tutto in terra, da terra a un altro, da un altro a terra. Praticamente la fase dell'imbottigliamento e niente, poi dopodiché va messa su un altro trasportatore che lo porta all'altro capannone che salgono su, poi c'è una macchina che li mette dentro questa cosa, gli fa praticamente il sigillo. Se quello in plastica, almeno in bottigliera sì, quello in plastica. Oppure salgono direttamente le casse, quelle in plastica dove ci vanno le bottiglie in vetro, che c'è sempre una macchina che le piglia, le mette sul pallet e poi in automatico gli fa il coso del cielo, fa per non muoversi sulla pedana e via. Fase di imbottigliamento, la verità non ci sono sceso, perché forse è anche vietato, ma io non ero così curioso, però la prossima volta che mi capita provo a scendere a vedere se com'è la situazione. Non è una bella cosa, io l'ho vista, ti dico che di sterile, se parliamo di sterile non c'è niente, proprio zero completamente. C'è questa fase così accompagnatoria che è una fase molto delicata ma non ha niente di sterile, nel modo più assoluto, sia la palmera, le scatolette, la stessa cosa, capito? Arrivano queste scatolette in un altro trasportatore tutti binghiosi, il tonno che è già trattato, quindi arriva, praticamente va preso con una paletta delle cialte già pronte a misura della scatoletta, vanno messe dentro, quindi questa paletina cialda prende tum, le mette già dentro, già condito il tutto, non c'è niente di sterile, niente, perché l'ho visto, non c'è niente di sterile, è proprio zero sotto zero. Quindi se parliamo di pulizia parliamo di cose allucinanti, perché non è la prima volta che la palmera l'hanno chiusa per controlli USL, non è la prima volta che hanno fatto dei controlli anche per quanto riguarda gli stabilimenti Santa Lucia, Smeraldina e San Martino, e quindi lo dico per certezza, perché anche da poco è stato fatto un grandissimo controllo per quanto riguarda la sterilità di tutte le cose che vanno messe in commercio. Sì, confermo anche io. Io ho visto lo stabilimento dei succhi di frutta a Bolzano, è una cosa allucinante. La frutta in putrefazione, marcia, con la pala meccanica la mettevano dentro i bollituri e noi ci prendiamo i succhi di frutta. Quando sono in bottiglia tutti belli, puliti, mamma mia. Poi se li vedi facendo, sentivamo da lontano l'odore del Busti, ci sembrava l'odore del Busti. Ho detto, la fabbrica della Wurz, dicevamo noi, che quando stavamo passando in treno lì davanti, e poi certo ci avviciniamo ed era la fabbrica di succhi di frutta, un odore di Busti da lontano ed era il succhi di frutta. Tu immaginati, non c'è cosa più schifosa del succo di frutta, credetemi, ve lo dico con molta certezza, perché il direttore commerciale di una delle più grosse, non dico chi perché non sono così a dire, un direttore commerciale di una delle più grosse aziende mondiali per quanto riguarda la frutta, è un mio carissimo amico, anzi è mio compare. E ultimamente io, ti parlo di anni fa, non sono andato a trovare in continente, non dico dove, altrimenti capite qual è l'azienda, mi raccontava cose del genere, perché io chiaramente facevo domande, la curiosità, qui era, scusa, come avviene il procedimento qui, ma l'imbottigliamento, lo stabilimento, lui mi ha detto croci allucinanti, che non mi doveva dire, ma me li ha dette. Eppure a me piace il succo di frutta, è una cosa che io bevo molto volentieri e continuo a berla, nonostante non mi abbia detto queste cose. Però la cosa più schifosa che c'è in commercio, perché ha tanto di quegli amidi, di quegli acidi proprio putrefatti, di quelle sostanze acide che vengono messe proprio per far sì che il prodotto non acidisca, allucinate, cioè una cosa mondiale, c'è ammoniaca al 75% nel succo di frutta, non so se voi l'avete mai bevuto così, apri la bottiglia con uno stappi, si sente già quell'odore di acidità, no, quella è ammoniaca. C'è proprio quell'ammoniaca che ammettono per far sì che il prodotto non sia acido, che è allucinante, c'è il 75%, senza parlare del bisolfitto, così chiamato, che si mette anche per far sì che il vino non diventi acetto. È veramente allucinante i prodotti che ci sono in queste case così commerciali. Vai Gianni Biancoma, Porto Cervo l'ha fatto dormire, sta pensando a Berlusconi, ha visto la villa di Berlusconi e si è addormentato. Claudio, e noi ci lamentiamo per l'acqua, è vero, e se si appesano la gente quanta porcheria si ingeriscono senza sapere niente, per carità, ma c'è bene io che bevo solo acqua e tutte le altre cose le lascio perdere. Io te lo dico per certezza perché il mio lavoro e tu lo sai benissimo. L'acqua del rubinetto, credetemi, l'acqua del rubinetto è la cosa più sana che c'è, nonostante uno prenda odore di cloro. Il cloro non fa male a nessuno, il cloro è un disinfettante che noi mettiamo nell'acqua e siccome è in percentuale, in base ai metri cubi di erogazione, può succedere che in una portata di 800 metri cubi al secondo ci può essere una variante giornaliera di anziché 800 metri cubi al secondo di 600 e quindi tu prendi l'odore del cloro perché noi abbiamo dosato per 800 metri cubi, capito? Però il cloro, l'ipoclorito di sodio, non fa male a nessuno, non fa male allo stomaco, non è nocivo e non crea nessun danno, né morale né fisico, toglietevelo dalla testa. Mentre gli amidi che mettono nelle sostanze tipo succo di frutta, tipo nei vini imbottigliati, tipo nelle bottiglie stesse, perché anche il come si chiama, l'altra sostanza che mettono per far sì che l'acqua sia frizzante, meno frizzante, poco frizzante, eccetera. Quelli sono gasi, non al naturale, sono gasi messi nelle bottiglie dalle bombole di ossigeno, capito? Sono gasi che fanno male, mentre l'acqua naturale in percentuale con l'ipoclorito di sodio che è messa per far sì che l'acqua abbia una percentuale di disinfettazione non fa male a nessuno. Io già bevo acqua, qualche volta quando sono in compagnia bevo qualche bicchiere di birra, magra che guscia, non è sempre, però io in genere a bere acqua è naturale, non né gassata, né ghiso, né ghiso, nulla, niente, naturale. Guarda, fa più male Mario, l'anidride carbonica che mettono per far sì che l'acqua diventi gassata è l'ipoclorito di sodio, perché l'ipoclorito di sodio è una carichina, praticamente, la percentuale dell'ipoclorito di sodio è la casa, il prodotto base per fare la varichina. L'ipoclorito di sodio che noi usiamo è al 100%, mentre la varichina va venduta al 5% di percentuale, quindi immaginati il 5% di ipoclorito di sodio e il 95% l'acqua. Mentre invece noi qua che iniettiamo la veste è ipoclorito di sodio al 100%, capito? Negli impianti di potabilizzazione. quindi non è una cosa che ha mai fatto male a nessuno, sì, prendilo con voi, c'è la via del Valchina, beve lo stesso, è controllatissima, la percentuale è quella che deve essere iniettata in rete. Poi, ti ripeto, ci può essere una percentuale più alta perché magari in quella giornata di lavorazione della potabilizzazione dell'acqua ci può essere un calo di pressione, quindi tu metti un impianto di potabilizzazione a 800 metri cubi al secondo, mentre in quel momento sono passati 700 metri cubi, quindi la percentuale di effetto iniettata è superiore, quindi senti l'odore. Ma non fa assolutamente male, non fa assolutamente male. Sono più tossici tutti quei gas e tutte quelle proteine, così chiamate, che mettono nelle sostanze dove noi mangiamo e beviamo, che il biossido oppure l'ipoclorito di sodio o il clorito di sodio, così chiamato. Sono tutte percentuali che non fanno male a nessuno. Ah, ecco, appoggio lo so già. Che per fare all'acqua gasata ci mettono quella specie di coso di ossigeno, che poi non è neanche ossigeno, è tutta altra cosa. Comunque io preferisco sempre l'acqua naturale. Io sono andato, capitato che ho bevuto l'acqua stamattina lì dalla fontana, perché c'è addirittura un rubinetto dove tu bevi l'acqua della sorgente praticamente, e niente, allora è stato naturale, buonissima. Mentre che io, quando mi capita molte volte al bar, okay, o perché si sbagliano o perché non ti sentono, quando le chiedi l'acqua dopo il caffè te la mettono molte volte gasata. Io, quando mi mettono l'acqua gasata, la lascio anche sul banco, perché l'epidolo del sale, io sento, mi lascia la bocca salata quando bevo l'acqua gasata, che sta palosa, infatti non mi piace. Perché secondo la leggenda carbonica che mettono fa una percentuale anche di sale, capito? E lì, chiaramente è lo sbaglio di chi fa le analisi. Per far sì che l'acqua, quando va messa all'imbottigliamento, non sia salvata, capito? È tutto riferito al trattamento che hanno con l'anidride carbonica e con le percentuali di sale che mettono per far sì che l'anidride carbonica arrivi a quella gradazione. Tutto lì. Vai, Roberto. No, sto dicendo, il fatto da stamattina c'è una cosa di buono, che il gas non è, il gas che c'è è naturale, è preso immagazzinato dal, viene sgasata, almeno mi ha detto così un amico che lavorava lì, viene sgasata dal coso, dentro il serbatoio viene messo il gas, l'anidride carbonica naturale, quella prodotta dall'acqua stessa, e poi rimessa dentro le bottiglie. Un problema che dice, gli impianti sono molto vivi, che ti può capitare una bottiglia troppo gasata o quella poco gasata, non è uniforme la cosa, la percentuale di anidride carbonica, però a livello di coso tutto naturale il processo. Guarda, il problema della San Martino è il fratello di mia suocera, quello te lo dico con percentuali molto alte. La San Martino è un grandissimo stabilimento. Il problema della San Martino, giustamente come hai detto tu, è che lo stabilimento è molto vecchio. Il processo dell'impianto avviene tutto naturale, e non ci sono dubbi. Però può succedere che, siccome lo stabilimento è talmente vecchio, la camera di accumulo praticamente dell'anidride carbonica al naturale, dove è collegata a dei serbatoi di pompaggio che vanno poi collegati all'imbottigliamento, ha una percentuale non molto alta di anidride carbonica, e quindi fa sì che le percentuali iniettate sulle bottiglie stesse abbiano una relazione naturale. Però avviene anche che, come può succedere, come già è successo, che siccome la percentuale non è talmente forte da poter iniettare al naturale sulle bottiglie stesse la gradazione giusta, può succedere che in qualche bottiglia ci sia una gradazione alta e una gradazione bassa. Tant'è vero che la San mattino per l'imbottigliamento ho deciso di separare le bottiglie tra due serie di imbottigliamento, una naturale naturale, che è quella meno frizzante così chiamata, l'altra frizzante del tutto, perché quella frizzante praticamente frizzante frizzante è quella che avviene sulla camera di imbottigliamento con l'anidride carbonica in pressione, mentre quella al naturale, cioè media, così quella blu, quella che l'azienda ha chiamato poco naturale, cioè un nome particolare, quella viene proprio direttamente dalla fonte, quindi va imbottigliata con l'anidride carbonica al naturale, mentre l'altra, quella più frizzante, è imbottigliata al naturale, sì, però allo stesso tempo con pressione della camera che hanno loro dell'imbottigliamento, capito Robert? Infatti mi stai dicendo più o meno le stesse cose, mi ha detto quello là, però il San Martino ha il vantaggio rispetto a tutte le altre acque minerali tipo la Santa Lucia, che il gas contenuto è direttamente dalla fonte, non è aggiunto dalle bombole, per dire, dalle sferle. No, nel modo che assoluto, la San Martino in bottiglia naturale, come ti dicevo prima, ha una percentuale del 50% di imbottigliamento naturale, l'altro 50% lo imbottiglia su pressione, quindi su camera, diciamo, su imbottigliamento compresso, ecco, come te lo voglio spiegare, su pressione, perché l'anidride carbonica che loro iniettano al momento in cui stanno imbottigliando è iniettato da un serbatoio a pressione, però sempre naturale, recuperato dalla fonte naturale, mentre l'imbottigliamento, quello medio, quello meno gasato, quello va imbottigliato con l'anidride carbonica che arriva direttamente dalla fonte. La Santa Lucia e la Smeraldina imbottigliano tutto non al naturale, perché non hanno nessuna fonte che le dà la possibilità di recuperare l'anidride carbonica praticamente dalla fonte stessa. L'unica casa che recupera l'anidride carbonica dalla fonte al naturale è solo la San Martino. Infatti lo dice, a livello di sicurezza vari, è molto più sicuro una San Martino che una Santa Lucia, anche se il gusto della Santa Lucia forse è leggermente migliore della minerale gasata. Beh, un pochino diverso, la Santa Lucia è troppo anidride carbonica per me, è un'acqua molto digeribile, molto buona, molto controllata, perché ci tengono moltissimo lì nella fonte lì, come ci tengono moltissimo a Sette Fuentes, a San Leonardo. A Sette Fuentes è una delle prime case che ha imbottigliato acque dove ha fatto chiaramente quelle sostanze che deve fare, tipo aranciata, gassosa e tutte le altre cose, no? Quindi è una casa costruttrice che da millenni imbottiglia tutti i gas al naturale e non al naturale, capito, di laboratorio così chiamato. Però è una casa molto attenta come lavorazione, ecco. La Santa Lucia un po' meno, perché è una casa che imbottiglia acque e che fa tutto sotto macchinarie, ecco, a differenza della San Martino. Vai Mario. Cappagatta, no, io la verità ho bevuto sia la San Martino alla naturale, e c'è quel leggero cristallino, ma leggero quasi, diciamo così, quasi impercettibile. Ho bevuto anche la Santa Lucia, quella naturale è buonissima. Se io dovessi comprare acqua, compro acqua naturale, non trattata, perché una volta che è trattata, te l'ho detto, li sento usare sia di chiunque casa sia, sia Santa Lucia, sia San Martino, e quando vado a usare in bocca non mi piace, così che, no? Preferibilmente muoio di sete anziché bere acqua salata. Ma io non so se tu hai mai bevuto l'acqua di Mudisciu, l'acqua di Romana. L'acqua di Mudisciu, di Romana, no, c'è una fonte naturale che praticamente ha la stessa c'è una testa mentre carbonica che ci dà le acque stamattino, capito? L'acqua di Molise è molto molto buona, è un'acqua leggerissima che tu vai lì dalla fonte naturale, la prendi, la metti nella bottiglia, è un'acqua frizzantina alla naturale, capito? Frizzante al naturale. Allora, una delle migliori acque che noi abbiamo in Sardegna, tra l'altro, attenzione, perché è un'acqua molto ma molto leggera, è molto buona, veramente buona, è l'acqua di Modesio sotto Romana, che c'è una fonte naturale come può essere quella di San Martino. Siccome Romana è molto ma molto vicino alla zona dove fanno l'altro imbottigliamento, quindi nessuno ha mai pensato di fare uno stabilimento naturale come può, come è nato la San Martino, capito? Perché lì c'è una fonte dove la montagna, non so quanti metri cubi a secondo dà di acqua, proprio al naturale, una fonte al naturale, ed è un'acqua un po' frizzantina, diciamo, ecco, c'è questo leggero frizzante che l'acqua stessa tiene, questa anidride carbonica che questa acqua mantiene scendendo dalle montagne. La mai provata roba che l'acqua di Modesio? Sì, è buonissima, infatti l'unico problema la devi consumare subito perché va via subito il gas, tu vai col bidone, la devi mettere subito nella bottiglia di un metro e tapparla bene e metterla in frigo, se no in un paio di giorni se ne va subito il gas, se la tieni nel bidone. Esatto, perché è un'acqua naturale, è un'acqua che la nitride carbonica la recupera la montagna e te la manda giù in questa sorgente al naturale e tu chiaramente la devi recuperare, imbottigliare e chiudere. Come fanno la San Martino, io non so se avete mai visto come prendono l'acqua la San Martino dalla fonte naturale, cioè direttamente un tubo che aspira l'acqua dalla fonte naturale, chiaramente con tanto di regolarità, e va mandata direttamente dentro lo stabilimento, automaticamente in questo tubo, che è un tubo a pressione, l'anidride carbonica non si perde, capito? Non si perde. E automaticamente viene quindi messa dentro lo stabilimento già col suo gas naturale, capito? K sì, è così, ma no, quella di Romana non l'ho mai bevuta, però ho bevuto quella che c'è a Buni, hai visto quando stai scendendo da Montespada che c'è quella fontana sulla destra? Io ho avuto occasione anche di parlare con gente del porto e dice che hanno fatto una guerra perché dice che volevano far nascere uno stabilimento di imbottigliamento lì e dice che hanno fatto una mezza guerra perché dice stabilimento non ne volevano. L'acqua è buonissima, è vero, lì sulla destra tu come scendi da Montespada un po' prima di entrare a Buni c'è una fontana enorme, ma è tipo quella di, diciamo così, cosa ti posso dire, perché è una rotonda praticamente, è fatta a forma di cerchio e poi c'è questa sorgente che arriva in mezzo e sgorga acqua da 6 o 7 punti là, che c'è il tubicino e praticamente uno va e si piglia l'acqua che vuole ed è buonissima. Che dice in mare, non è una fontana naturale come quella di Tempio Piscinaccia, capito? Tempio Piscinaccia dove poi negli anni, mi pare, 97-98 hanno fatto le terme, prima non c'erano le terme sono nate nel 97-98, 99, prima Tempio Piscinaccia praticamente era una sorgente naturale dove sgorgava, scendeva questa acqua del Monte Limbara, capito? Dal Monte Limbara che erano delle sorgenti naturali. E lì la gente di Tempio dice, ma scusa, quest'acqua perché deve andare persa? Noi facciamo delle fonti al naturale dentro la pinetta e così hanno fatto con dei rubinetti, con dei serbatoi di accumulo, dove la gente andava e si prendeva l'acqua di Tempio, così chiamata, capito? Ma quella è acqua dell'Imbara, è acqua dell'Imbara che arriva lì dalle sorgenti naturali. Quest'acqua, siccome è risultata molto, ma molto buona per chi era aveva problemi ai reni e quindi sono nate le terme lì di Tempio Piscinaccia che sono praticamente sotto la montagna dell'Imbara, capito? Sono sotto la montagna dell'Imbara, sono praticamente di fronte dove c'è il Monte Amiata, capito? nell'Agnata, non Agnata, scusa, dove c'è il monte Agnata, dove c'è la Peluta De Andrei, praticamente, dove c'è lì l'agriturismo. Sotto lì ci sono queste fonti al naturale, dove nate, dove sono nate le terme di Tempio di Schinaccia, così chiamate. E sono sempre acque al naturale, acque buonissime, che però sono dedicate solo esclusivamente a chi ha problemi ai reni, perché chi non ha problemi ai reni è un'acqua molto molto pesante. Ecco, ma come l'acqua di Renaccio, esatto. Quella che sta mangiando quest'anno, no, io prendo sempre l'acqua da qua su a Piazza dei Segni, da Angius, è veramente buona, è leggera, abbastanza leggera, simile all'acqua San Giorgio, che secondo me è la migliore acqua che abbiamo in Sardegna. È giusto il giusto tenore di conto di metallo, non è pesante, è proprio la leggerissima bene. Sì, sì, cosa sta dicendo Mario? È tutta l'acqua di Renaccio. L'acqua di Renaccio la dovrebbe bere solo chi ha problemi ai reni. Chi non ha problemi ai reni è un bel pesante quell'acqua. La stessa, noi la chiamiamo l'acqua di Renaccio. L'acqua di Renaccio è dal Monte Limbara. No, Renaccio è in dialetto, però il punto esatto è l'acqua dell'Imbara, che si chiama la zona, siccome io ci ho lavorato, perché abbiamo anche un potabilizzatore lì a Tempio Pischinaccia, no? È proprio Tempio Pischinaccia, dove praticamente la collina alta, dove c'è il parco, e dove tu vai lì a prendere acqua. È una fonte naturale, una più di una ne hanno fatto adesso, non so se ci sei andato, ma io sono andato da poco, e praticamente c'è un parco grande dove tutti vanno a prendere acqua. A fianco a questo parco c'è un grandissimo caseggiato enorme che sembra un ospedale. Quelle sono le terme di Tempio, capito? Sono nate le terme di Tempio, 97-98, una cosa del genere, 99, non di più. Perché quando io ero lì di servizio ho fatto anche lì a Tempio e stavano facendo la costruzione, ma io sono stato trasferito lì nella zona di Perfugas nel 97 e per qualche mese sono andato a sostituire un collega a Tempio, proprio lì a Tempio Pischinaccia, e davanti c'erano questo caseggiato. Io infatti chiesi, ho detto, ma che cos'è questa cosa? Stavano facendo le terme per far sì che ci sia un ospedale proprio come tipo quello di Sardara, no? Che a Sardara ci sono le terme, lo stesso derivanti proprio da una grandissima montagna di acqua naturale, dove poi loro fanno dei trattamenti fanghi anche per le ossa, per i dolori reumatici, eccetera. E quindi anche lì a Tempio è nato questo ospedale, così chiamato ospedale Tempio Pischinaccia. E lì c'è l'acqua di Renaccio che noi chiamiamo, sempre quella è Mario, sempre quella. Quella che tu prendi in Piazza dei Cigni o vabbè, non è l'acqua di Renaccio, è l'acqua del Monte Limbara, sotto il Monte Limbara, che però lui la prende direttamente da Agius, l'acqua di Agius, proprio dalla fonte di Agius, che è quella che arriva a valle, che è ancora più leggera, non è proprio quella che prendi tu sopra in alto di Renaccio, come dice Mario, no, quella di Agius. Ha fatto passi l'acqua di Agius, il tipo di Agius infatti viene vicino ed è tutta diversa, quella di Agius è troppo pesante, cioè ne bevi mezzo bicchiere come te ne hai bevuto quattro dell'acqua normale. No, no, è buona, leggera, non ha gusti particolari. Io diciamo dell'acqua me ne accorgo subito se c'è un gusto strano, quella lì è buonissima. È come tipo la San Giorgio, molto simile a San Giorgio, neutra, non ha né tenore di ferro o di altri minerali pesanti, non ce n'è. Per me va benissimo. Perché tu immagina, vabbè, io non è per vantarmi, ma sul trattamento d'acqua sono preparatissimo, perché ci studio tantissimo e ci lavoro. Quindi tu immagina che da Tempio, da Renaccio, ad arrivare all'altra fonte di Agius, dove lui fa il carico dell'acqua, c'è una fonte naturale che sgorga per 10 km proprio dentro la foresta. Quindi quest'acqua che sgorga all'interno di questa foresta al naturale, poi c'è anche una foresta pietrificata verso proprio Agius basso, diciamo, proprio quasi ad arrivare a Bassa Cutena, no? Nella zona di Arzachena, dove questa fonte al naturale cala, scende da queste montagne e corre in questa valle, in questo fiumiciato naturale che è bellissimo, tutto pieno di pietre bianche, dove allo stesso tempo tutta quest'acqua che sgorga e arriva fino a questa fonte naturale dove lui fa il carico ad Agius. radius ci sono 10 km, quindi tu immagina quest'acqua che cammina naturale, automaticamente cosa perde? Perde l'anidride carbonica, perde tutti i gas che ci sono nelle sostanze specie dell'acqua, perde tutte l'impurità che l'acqua fece da un chilometro a 2 km ha, e quindi arriva proprio lì al naturale e si ferma in questo vascone, non so se tu l'hai mai visto, in questo vascone, sempre al naturale, creato dalle pietre spesse, spostate man mano dalla corrente dell'acqua con le piogge, no? Si è creato questo muro di contenimento di acqua, dove il comune di Agios ha praticamente fatto un recupero a serbatoio. Quindi facendo questo recupero a serbatoio delle acque naturali, l'acqua che la fa beccanta perde ancora di più le sostanze che si possono inserire nel tragitto che l'acqua stessa fa, e vengono praticamente depurate al naturale. Quindi tu non fai altro che recuperare questa acqua decantata, no? E metterla dentro la cisterna e poi darla, quindi è un'acqua buonissima, buona veramente. Sì, lo confermo anche io, guarda, io di acque ne ho provato 10.000, quella lì è l'unica acqua simile alla San Giorgio, che sono proprio un gusto particolare, non è pesante, non c'è un coso predominante, un gusto predominante, perché adesso assaggi chissà Boschetta, Rocchetta, Blu, ce ne sono 10.000 di acque, tutte hanno un gusto loro, questa qui è neutra, proprio c'ha un gusto unico, secondo me solo la San Giorgio è acqua di vento. Perché lo stabilimento di Zilligas è uno degli stabilimenti in Sardegna a livello mondiale. Dico che a livello mondiale perché la San Giorgio fa un'esportazione del 75% delle sue acque all'estero, capisci? Quindi è uno stabilimento a livello mondiale dove l'acqua che viene naturalmente da Zilligas, quindi è un altro monte che crea sempre quest'acqua naturale, loro hanno l'imbottigliamento non naturale, capito? L'imbottigliamento naturale. Lo stabilimento che c'è a Zilligas ha un altro trasportatore che porta le bottiglie direttamente fuori e le riempiono dalla fonte. Vabbè, dalla fonte, ma cosa allucinante, capito? Riprendi Mario. È così. No, io, vabbè, ho bevuto anche quell'acqua lì di Agios, l'ho trovata buona lo stesso, non ho problemi perché quando andavo in quella zona andavo a trovare un mio compare e niente, l'acqua era buonissima. E poi è buona anche, non quella decantata che stai dicendo tu, Cla, ma anche quella che c'è all'entrata del paese, se tu hai notato come entri nel paese subito lì sulla destra, c'è una specie di pozzo e c'è una fontana lì che può essere simile a quella di Rosello. E l'acqua è buonissima, niente da dire. Poi magari è sempre la stessa acqua che corre, poi si deposita giù in quel vascone che stai dicendo tu. Sì, concede Mario, sì, è sempre la stessa acqua che hanno praticamente deviato, l'hanno fatta in due punti, capito? Una, diciamo, l'hanno fatto sì che si blocchi in quel punto lì per far sì che le persone non abbiano bisogno di andare fino a giù alla fonte di decantazione, ecco, e quindi è come all'interno tu, non so se mi hai andato a Tempio, no? Cioè, sì, a Tempio, quando arrivi a Tempio, all'ingresso di Tempio, c'è una fontana sulla destra, no? Dove c'è una piattona, questa fontana tutta in pietra con i rubinetti, quella è la stessa acqua di Rinaggio, eh? E il comune di Tempio ha fatto sì che la fonte abbia una deviazione, la fonte naturale abbia una deviazione, una condotta sempre naturale fatta dal comune di Tempio, per far sì che i cittadini non del posto abbiano la possibilità di prendere l'acqua anche all'ingresso del paese, perché per andare a Rinaggio devi entrare nel tuo paese, non lo conosci, e magari ti perdi, perché devi salire su, in alto, cioè, insomma, ti puoi perdere, ecco, uno che non è posto si perde perché non sa dove. Invece il tuo esempio ha fatto sì che quelli che non conoscono il tempio abbiano questa fonte naturale all'ingresso al paese, c'è anche scritto fonte di rinaggio naturale, perché è la stessa acqua che tu trovi all'uscita del monte. Il comune ha adottato questo sistema e ha fatto sì che chi non conosce il tempio abbia acqua all'ingresso al paese, qui non ha bisogno di perdersi. E così ha fatto il comune di Aggio, c'è la stessa cosa. Questa struttura sempre alle fonti di Renatio, quindi tutto ciò che è stato fatto sempre da quelle, da quella, da quelle, da quelle acque lì, diciamo, ecco, tutto quello che è nato è stato fatto in base alla struttura della, per, da queste acque, in base a tutto quello che è stato creato, tutto lì. No, già l'ho capito, ci sono andato l'anno scorso proprio di lì, bellissimo. Però non avete mai visto quelle di Castelluria, siete mai andati a vedere le terme di Castelluria, quello penso sia un posto più bello di quello, pochi ce ne sono in Sardegna. Le terme di Castelluria io sono di fronte. Le terme di Castelluria noi praticamente diamo, diamo il 48% della, dell'erogazione dell'acqua. L'erogazione dell'acqua è l'alcolina, però attenzione, non trattata e grezza, perché l'acqua alcolina va pompata su, su dei vasconi dove loro hanno dei trattamenti particolari nelle loro vasche, dove poi fanno tutta la, la lavorazione che devono fare, quindi i massaggi e tutto quanto. Beh, Castelluria, Castelluria è un Kenya. Non so se hai mai fatto le fotografie, ma se tu fai le fotografie a Castelluria, tutta la, la parete rocciosa che c'è è rossa, se tu la vedi da sopra sembra un Kenya. Non so, è spettacolare. Di lì amici miei sono scesi in canoa, si hanno fatto tutta la canoa, qualcuno si è fatto il bagno. È uno dei pochi posti in Sardegna dove c'è l'acqua calda, di lì. Di lì ci sono le zone dell'acqua calda, se vuoi ti puoi fare il bagno. Vabbè, io non me lo farei mai perché non mi piace. Però di lì ci sono le, i pezzettini dove l'acqua non la puoi toccare, è talmente calda, ci sono le sorgenti proprio affioranti. Ci sono le sorgenti affioranti perché c'è il, non so se tu sai questo, ma la sorgente che c'è lì calda di Castelluria, c'è la termocentrale dell'Enel, tu lo sai, sì. No, ma non mica è per quello, sì, la termocentrale è per produrre energia elettrica, però è una cosa naturale il coso, con l'affare quei soffianti di coso, di acqua calda, sono naturale, non è così. No, no, no, no, vabbè. Quelli dell'energia elettrica, cioè, è l'acqua che aspirano le turbine per raffreddarsi e poi giustamente la buttano fuori calda. È come l'acqua che circola dentro una macchina. Perché riscalda? Perché raffredda i cilindri, altrimenti scoppierebbero. E così è quell'acqua lì. Viene aspirata fredda e poi viene buttata fuori calda. C'è un circolo continuo. Altrimenti quelle turbine esploderebbero. Eh beh, quindi sì, non prendete convinta che, cioè, si sa, qualcuno lo sa e qualcuno no, però, come dice Maria, cioè, lì c'è una percentuale di 110-120 gradi al secondo dove le turbine aspirano l'acqua, l'acqua del, del Cuginas, la mettono in questi flussi, i flussi stessi poi al momento in cui erogano questa, questa energia vanno nuovamente a correre, a caricare dentro, dentro, dentro l'acqua stessa, quindi dentro il flusso dell'acqua che corre, e cosa succede? Cioè, non c'è bisogno di dirlo, cioè il flusso dell'acqua che arriva a 120 gradi si mescola con quella fredda, che poi tanto fredda non è perché lì è soleggiato 24 ore su 24, e quindi fa sì che sgorga nel, nell'ultima, nell'ultima sorgente, che poi è proprio lì, nelle terme di Castelluria, a 70-80 gradi, 60 gradi, capito? E quindi la gente dice è calda e qui è bolle, ci sono punti bassi dove l'acqua bolle anche, però non è al naturale. È al naturale perché nessuno vede da dove arriva l'acqua, ma quelle sono le turbine che fanno sì che mandano quest'acqua, quest'acqua a 120, anche 130-140 gradi, quindi è chiaro che prima di raffreddare arriva sempre alla, alla sorgente naturale delle terme a 60, 70, 80 gradi, 40 gradi, quindi è sempre bubendi. Così no, non lo sapevo, pensavo fosse una cosa naturale, c'è una sorgente di acqua calda, perché io vedevo il rubinetto, lì c'era un tubo proprio vicino sotto la, la struttura, diciamo, delle terme, di lì la gente andava a inalare l'aria calda e vapori, perciò forse non si poteva toccare, sarà stata 80 gradi quell'acqua, che non poteva neanche toccarla, stava entrando a smollente. E qui diciamo sono tubi di vapore che la stessa generazione dell'acqua, la stessa turbina è umana, e quindi hanno fatto sì che una parte sgorgasse come percentuale di calore sul flusso dell'acqua corrente, e l'altra parte hanno fatto sì che uscisse a vapore acqueo praticamente, ecco perché va fatta così. Guarda, ma non lo so se non l'hanno vista per me. Ma io mi sento ancora sotto, adesso sto uscendo un po' in un guasto, un piccolino. Scappa, io ti ascolto sempre. Se non ti avrei detto Romero, non ti sto ascoltando. Ma ti ascolto perfettamente. No, ma credevo che là, credevo che tu lo sapessi che quello lì è un circo forzato, che ci sono delle pompe che aspirano l'acqua, vanno nelle turbine. Queste turbine si devono raffreddare in qualche modo, no? E si raffreddano così, è come il raffreddamento del motore. Viene tramite l'acqua che va nel radiatore e poi l'aria la rinfresca, diciamo così. Lì però il radiatore non c'è e va aspirando da una parte, la piglia da su in alto, fresca, e poi la butta leggermente più giù, o calda, e tutto lì. Vabbè, molti non lo sanno perché non sanno che cosa c'è lì, davvero, e niente, già lo conosco comunque quel posto qua, credo che l'ho visto anche nascendo allora, perché io c'ero l'anno scorso, che sono salito lì al monte, e ho visto che il comune ha fatto una gran bella cosa, ha fatto un bel viale a gradoni, giustamente, le macchine non scendono più giù, ma si fermano tutte quante su vicino all'albergo che c'è, e si scende tutto a piedi, c'è ben asfaltato, c'è il posto per scendere, e poi c'è l'altra corsia per salire, hanno fatto un bel lavoro lì a Tempio. Sì Mario, beh, queste cose sono state fatte, è stata fatta era stato fatto un decreto legge per quanto riguardava il problema salvacorte, però è stato anche varato dalla giunta di quei comuni un'ordinanza dove vietava in modo più assoluto il transito alle macchine. Perché anni fa, mi pare 6-7 anni fa, lì era partito un incendio e gli autobotti dei vigili del fuoco hanno avuto grossi problemi per poter scendere, per poter bonificare la zona. Tant'è vero che c'era voluto più che il sostegno, l'utilizzo degli autobotti, c'era voluto l'utilizzo degli elicotteri e addirittura del Canadair che era partito lì proprio dalla Costa Smeralda, capito? Perché era talmente intasata la zona di macchine, di strutture che non potevano sortare, camper, eccetera, e quindi chiaramente sono partite le ordinanze da parte dei comuni per far sì che non succeda mai più una cosa del genere, perché il giorno è andato bene, l'incendio è stato domato, però se dovesse partire un incendio all'interno di quel posto dove la struttura stessa non può operare, la struttura dico quella permanente che c'è non può operare perché c'è un sistema di incendio anche notevolmente abbastanza strutturato bene, perché ci sono delle pompe collegate direttamente a bagno, delle pompe che mandano, hanno un, mi pare, 12-13 atmosfere, 8 atmosfere, la più piccola, quindi hanno un raggio di compressione, di mandata d'acqua anche di 100 metri, quindi non c'è problema per quello, però le persone che devono operare in quel momento hanno bisogno di spazi, di cose, e quando c'è una macchina in mezzo alle balle non si può fare, e quindi sono state fatte queste ordinanze da parte dei comuni e da parte dell'ente forestale, dove è vietato in modo più assoluto, ci sono anche i cartelli, è vietato in modo più assoluto transitare con le auto, quindi ci sono le piattaforme di sorta competenti, dove tu lasci la macchina, e poi andare a vedere la struttura, scendi a piedi, è giusto così, perché se succede qualcosa, o è molto difficile per le persone. C'è qualche don anziano che se vuole sedere perché magari si affaticano in salire, hanno fatto un bellissimo lavoro, guarda, le aiuole curate, veramente bello. Io ho avuto occasione l'anno scorso di andarci perché stavo lavorando lì, stavamo facendo un impianto di condizionamento lì nella chiesa di Corso, nell'arcivescovado lì vicino alla stazione. E ho detto andiamo a Renaggio un pochettino a vedere com'è, e ho visto che avevano tutto quanto rimodernato, hanno fatto delle piazzuole grandi per mettere le macchine, hanno fatto tutto quanto le discese in giù vicino alla fontana, lo stesso tutto quanto fatto in granito, un bellissimo lavoro, guarda. Sì, ma le mancano granito, hai visto tutte le ghiere in legno, tutte le recinzioni, tutto il legno, beh, chiaro, il comune stesso ha fatto queste cose intanto per il turismo, per tutto quello che serve per poter fare le stagioni fatte bene, perché è una grandissima struttura, ha fatto sì anche che ci sia educazione, che ci sia tutto quello che serve, perché lì prima era un casino, capito? Tutte le macchine in mezzo ai piedi, niente, c'è un periodo estivo dove addirittura ci sono i custodi dei parcheggi, quindi ti indicano dove mettere la macchina, tranquillo, lasciarla lì, mentre qui magari via di traverso, qui e là, vicino addirittura alle scale per caricare l'acqua, quindi quello che saliva non poteva neanche uscire col bidone che aveva la macchina davanti, cioè vergognoso. Allora sono state fatte delle ordinate ben precise dove si stabilisce quello. Ogni tanto passano i vigili urbani, se c'è disordine scrivono e mettono le multe, e quindi è giusto così, educazione per educazione, è giusto così, bisogna fare le cose fatte bene. Quando uno ha una cultura del genere e deve farla funzionare in una certa maniera, i comuni fanno bene che mettono le ordinanze e fanno sì che le ordinanze vanno rispettate, tutto qui. Ma vabbè. Invece le cose di San Giorgio, dell'acqua San Giorgio, dove sono le fonti di Zinigas? Non ci sono mai andato, dove rimangono? Le fonti di Zinigas sono tra Lissana e Cagliari. Cos'è in montagna? Dove rimane lo stabilimento? È la montagna che praticamente tu vedi da Sardara verso la tua destra, che sono quelle montagne alte che sono attaccate a Villa Cidro. Serfedi, Monte Serfedi, quello che sta dicendo? A fianco, quelle sono. Non ci ho mai fatto caso, non, cioè, ci sono fatto tante volte di lì a strada, però non ho mai visto nessuna indicazione di stabilimenti, di corso. Ma c'è il stabilimento di Zinigas, c'è scritto in grande, c'è una freccia grandissima, dove ti indica praticamente dopo il... quindi lasci il bivio di Sciardara, vai ancora avanti e c'è il primo ingresso per Santa Margherita di Pula, quindi entri lì e poi ti trovi il cartello grande che ti indica Villa Cidro. Tu prima di entrare a Villa Cidro troverai un'altra strada che praticamente è la 190, mi pare, la 295, la statale 295, quella ti porta direttamente a Zinigas. Se andiamo al posto si può andare anche a fare scampagnate e cose del genere, tipo come può essere Rinaldi, una cosa del genere? No, tipo come può essere San Leonardo, ci sei mai andato alla foresta di San Leonardo? Sì, Santo Lussuzio, sì, no, bellissimi fusti. Se una cosa del genere si può andare anche, magari uno face una gita. Io non ci sono mai andato. Vabbè, sono circa da Sassari un 170-180 km andare e 180 km a tornare, è una cosa allucinante, perché poi praticamente 20 km, 30 km da Cagliari, Cagliari città, perché la 295 poi è collegata con la 130 e la 130 ci avrà 3-4 km che poi ti porta sulla 131, è la vecchia strada che c'era prima, capito? mentre andare a Santo Lucio, lì a San Leonardo, la pinetta di San Leonardo, ora sono 60 km andare e 60 km a tornare, perché non c'è problema, insomma non arrivi lì a Macomare, quindi dopo Bonorra altre 5 km, 10 km sei già arrivato a San Leonardo, capito? Mentre lì c'è una cosa molto molto brutta, perché quando fai praticamente entri sull'innesto della 180 che poi ti porta sulla 295, devi entrare a Domus Novas, devi entrare, c'è qualche altro paesino a Serbiana, poi devi entrare lì a, c'è un altro paesino ancora, insomma sono tutti paesini tutti di curve, di ingrigliotti, di tira e molla. Arrivi praticamente lì a Tindigas. Vabbè, no, dico, vai, uno che capita una volta in zona lì, dice che faccio un salto, non è che vado tutto di lì, no, io so che lontano Sardara, sono a 30 km da Cagliari più o meno, se mi stai dicendo vicino a Sardara, per cui è un bel lontano il posto. Non è lontano, lontano, è un posto molto lontano, però ti ripeto, è un posto bello che ci può andare a vedere una... È una sorgente naturale che cade praticamente alle montagne e che è un posto così, tipo la pinetta di Tempio, ma è molto più bella perché è come quella di San Leonardo. Perché dico molto più bella? Perché quella di San Leonardo è più bella di quella di Tempio, rispetto a Tempio perché? Perché c'ha tutte le panchine fatte in granito, con questi piantoni, lo stesso in granito, con la gente ci siede, ci sono le fontanelle che scendono, ci sono le passeggiate, ci sono i negozi, bar, tabacchino, ristorantini piccolini, tavolo, eccetera. È ben organizzata la pinetta San Leonardo, è un bel posto, mentre a Tempio è un po' più grezzo, diciamo, beh, non è rifinito bene come quella di San Leonardo. Si liga se tipo San Leonardo, non è che ci siano molte differenze. Vai Mario. Capo, già ci sono passato io lì vicino, come quando ho fatto la zona di, non so se la conoscete voi lì, Frumini Maggiore, tutte quante quei paesetti che ci sono lì. Solamente che la prima volta che sono andato non conoscevo le strade e sono entrato da Guspini. Guspini mi sono fatto tutta la montagna, che poi è una strada bruttissima perché è fretta e non è che sia tanto bella, tutto curve, e poi prosegui fino ad arrivare a Frumini Maggiore, tutto lì, che poi lì a Frumini Maggiore ho anche dormito in albergo. La mattina quando mi sono alzato mi sono appoggiato alla finestra, si vedeva anche Caloforte. Tutte queste belle zone quelle, tutte belle zone. Bella zona è anche la zona di Villa Cidro, anche a Villa Cidro, non so se ci è mandato, c'è una montagna naturale che ci hanno mandato l'acqua allucinante, dove poi hanno fatto lì uno stabilimento, non è nato, però hanno fatto una zona molto molto bella, una zona turistica dove molto bella. Sono andato 2 anni fa per Natale, mi pare, adesso mi ricordo, per Natale eravamo invitati da amici lì a Villa Cidro e siamo andati a vedere queste fonti che scendono, quest'acqua che scende da queste montagne allucinanti, grandi, alte 30, 40, 50 metri, queste montagne, ma belle, tutte queste cascate, dove chiamano le cascate di Villa Cidro, ma le cascate, in sera di fare la natura della montagna, e scorre in questo fiumiciato dove loro hanno fatto questi ponticelli, vanno lì a fare fotografie, eccetera, ma anche quella è molto bella, è quella un'acqua naturale che scende da queste montagne, e nessuno ha mai pensato di poter fare lì, proprio sotto la montagna, un piccolo stabilimento di bottiglia. No, io non ci sono mai stato, sono stato per l'orese lo stesso, non so se sei mai andato. Ciao Pomponio, amico, ciao Pomponio, e Marrando, ma la Carogna sì, non ho mai telefonato, il telefono che ti squillava il numero non lo vedevi, no, c'è Camalla, vedi, brutto cocomero, riprenditela con la buonasera, là, in compagnia mia, di Roberto e di Claudio. Buonasera a tutti. tu, Claudio, sto dato, ho capito chi è, che stava parlando, basso. Antonio Roberto, adesso sto uscendo con tre volte, dai, meglio mi ascolti. Ciao Roberto, dove dici semi? Ma proprio terra a terra qua, eh? E sto col portatile, sta uscendo tre volte, la potenza massima del portatile è tre volte e mezza. Ok, Claudio, prenditela. Ciao, se vuoi dire, ma è il basso, mi assisti. Anche a te? Ehi. Non sei basso, però c'è un problema, Claudio. Stai lavorando sempre con il senza processore, quindi fatti di tanto. No, il processore c'è un cerito. C'è un cerito il processore. Evidentemente è come solo con la voce, boh. C'è un cerito il processore e l'amplificazione è a 1,5, come sempre. Evidentemente è come solo con la voce. Forse è troppo forte, non lo so. E comunque sì, ci sono stato a Sigolagona, ci sono stato lì, sono stato anche nell'altra zona di dalla parte praticamente del Campidano, quindi tutta la Baia, Baia Chia, lì, Santa Margherita e Pula, tutte quelle zone. Però Sigolagona è la zona in oro, è molto, molto più bella. Si dice che per entrare si paga 2 euro, l'ho sentito l'altro giorno alla radio. Sono fatti di vero, beh. Quando si paga vuol dire che i comuni hanno bisogno di denaro e che quindi la parte turistica va gestita in una certa maniera, allora bisogna far sì che ci siano dei contributi per tenere sempre all'ordine del giorno le cose fatte bene. Tutto lì, caro mio, che tenevo lì. Ok. Sempre sta quando sto Antonello. Eh sì, la verità sì. Stai trappando. E che non. Boh, sinceramente non sono mai sempre così, Per quello che ho detto, non per altro. Se no, non ti ha detto niente. Mario, non mi ha detto niente, Roberto, non mi ha detto niente che ce l'ho vicino. Mario. Dire che ci sta strappando la testa lui. Dire di cambiarsela quella benedetta antenna. Allora, oggi dovevamo fare chissà che cosa, era in casa, l'ho chiamato e poi invece mi aveva attaccato un occhimondo oppure era attaccato un cambidare. Ora è pure della birra. Questo pompone è una scienza. Mentre sta a posto quell'antenna, capo di vista. No, non è come se avessi messo comunque Mario, la verità. Perché il strato sento strappata per appena. Non lo so, se tu dici il contrario, vedi tu, non so cosa dici. No, io non è che dico il contrario, io dico come l'ascolto, lo ascolto benissimo a Claudio, come ascolto bene a Roberto. Io invece a Roberto già lo ascolti male, a Claudio lo senti strappando, boh. Allora, secondo me c'è problemi tu con la tua antenna, caro Pompucu. Niente. Poi, non lo so, sicuramente dipende dalla tua antenna e Pompù. Non so cosa dirti, perché io qui l'ascolto benissimo a Claudio. Andava, dove ti dica io? A questo punto non so cosa dirvi. Mentre qui, ho la uno che ascoltate. Molto. Io sto facendo ascolto, non lo conoscevano mai Antonio, no, te l'avrei detto, anche perché tutta la sera che parlo questi livelli, né Roberto che ce l'ho a 100 metri, né Luca, né Mario che è molto attento, soprattutto alla mia radio, si accorge sempre se c'ho delle variazioni o delle cose, non mi ha detto niente, non è che ti sto dicendo che hai, può essere che tra me e te ci sia qualche anomalia, ma io ti ripeto, questa è la mia modulazione, non ho toccato niente nel modo più assoluto, tu sai benissimo che questa radio trasmette da anni in queste condizioni, non tocco mai il mic gain, il processore inserito, l'amplificazione non è assolutamente eccessiva, è sempre la stessa, anzi adesso era 1,8, l'ho abbassata a 1,5, e non noto, mi sto ascoltando il monitor, non noto nessuna anomalia. Non è che ti voglio dire che non hai ragione, ma può darsi che tra me e te ci sia qualche conflitto di ricezione che ci crea questo problema. Sto cercando di parlare a più bassa voce possibile, ma mi sarei accorto, anche perché mi accorgo subito se sto intermodulando. Vabbè, comunque ho cercato di abbassare un pochino, poi mi direi se va bene. Avanti, Roberto. No, fa la parte mia, tutto ok, va tutto bene. Però vedete, c'ha problemi come ce l'ho avuto io l'altro giorno con Antonio. Tutti lo ascoltavate bene, io non riuscivo a sentirlo chiaro. Ho dovuto toccare il clarifer in AM per cercare di migliorare. Forse c'era qualche riflessione di segnale, non lo so, che ti sdoppiava la radio, non lo so. Perché tu qua stai facendo benissimo. Con l'altro, col patch devo chiudere l'RSI game perché sei troppo forte. Mi dici che tiri troppo forte. Ma con questo non ci sono problemi. Vabbè, quando ci compaccio posso anche commutare sull'omologato e farci due chiacchiere a livello di salotto, non c'è problema, ma tu non c'eri e quindi ho riattaccato questo perché ho tutta la sera col base e col 40 canali e il microfono normale. Cappa di norma, però va bene. Vai Mario. Cappa. Comunque, quelli lì avendo apporto, cioè non apporto, tempo per fare delle ferie e soldi, sono dei posti bellissimi. Io ho avuto occasione di girarla qualche frazione lì, intorno a Villa Ciso, intorno a Piumini Maggiore e via dicendo, tutti posti bellissimi, solo che quando entri lì ti sagamo il portafoglio, ti sagamo, no? È vero, perché sono cari, Pensa che io ho pigliato una fiorentina quando era a Carlo Ponte, una fiorentina me l'hanno fatta pagare 100 euro. Qua c'è il bicarbonato, caro Mario, quelle sono zone particolari che danno sì la possibilità di vedere, di star bene, però allo stesso tempo fioccano quattrini. Sono zone particolari, residenziali, da loro chiamate, che poi tanto residenziali non sono, perché non c'è nessuno lì che è residente, sono tutti dei paesi che vanno a far lì attività, diciamo di turistica, ma non c'è niente di residenziale, quindi purtroppo è così, lì si fanno pagare, sì, si fanno pagare perché anni e anni fa io ci andai e il caffè costava il doppio di quello di Sassari, costava il doppio. Vabbè, però bisogna accettare anche questo. Gappa. Ognuno è consapevole che i nostri spostamenti in linea di massima sono tutti più costosi, come tu vai in Costa Smeralda, vai a Costa Rei, vai nella zona appunto di Baia Chia, Santa Margherita di Pula, Villa Cidro stesso, Calagonone, Sugolone, cioè sono tutti posti dove la Sardegna è bella. Dice la Sardegna, tutto gratis, fichini di epoci, ma mi sa che non è che esattamente così. Vai Antonio. Io voi siete andati, quello che vi dico io. Chi più ne ha, si va, diceva quello, no? Sì, vabbè, chi ne ha, anche chi non ne ha, Antonio. Non è che siamo sicchi o siamo ricchi per andare a buttare via denaro, ci va per passare una giornata diversa come ci vado io, ci vai anche tu a passare una giornata diversa e fai sì che se hai 10 euro, se c'è una cosa che ti piace te la compri, però sai, anziché 10 euro già ti costa 50 perché sei in una zona dove il turismo è più avanzato rispetto a dove siamo noi in questo momento, capito? Tutto lì. E prendo, vabbè, due minuti va bene. Sì, sì, è vero. Purtroppo in Italia in certi momenti sono troppo furbi e cercano di guadagnarci troppo, però non si rendono conto che poi la gente non ritorna lì. Come sta diventando come la Costa Dorata, ma in certi paesotti a Valerio gli ha affidato un gelato e te lo fate in barra quasi come la Costa Smeralda, solo perché è una zona di passaggio, non ci sono mai vicino, devi fermarti per forza lì. Ma com'è che già hanno levato la strada, la circonvallazione, così non vi passiamo più. Vabbè, io ce ne dico una che tu mi dirai, ma così, beh, io sono andato una volta lì in Costa Smeralda a guardare il rio di Costa Smeralda e dopo aver fatto diverse tappe sono andato lì a Cogio, che adesso non mi ricordo mai quel nome, a Pancuffia. Arrivato a un certo punto c'era un bello spazio e c'era questo carro che vendeva panini, lattine e cose, no? E ho detto, adesso tanto che stiamo aspettando, ho detto, ci mangiamo un panino, perché poi con la polvere che si alza, ho detto, è impossibile anche mangiarci il panino. Beh, lo sai che un panino all'epoca me l'hanno fatto pagare 10.000 lire. Io, anche quando mi ha dato il panino, avevo già dato il morso, se no gliel'avrei ritornato, guarda. Avrei fatto brutta figura, però un panino, aiutami, anche, mi era una rapina lì, a corso era, aspetta, aiutami a dire, a Pan Napoli. L'acqua vicino c'è, se infatti si sbagliano lì, o se va la rileva, oppure si può denare un muro. L'isoletta sta dicendo. Pappa, a Sisoletta, proprio lì. Quando tu arrivi giù in fondo c'è quello spiazzale sulla destra e la macchina, la strada segue verso sinistra. Però nel stretto stretto c'è l'acqua da una parte e qualche volta allargandosi tendono a finirci quasi in acqua. Perché se non gli va a tenere la macchina si finisce lì. E niente, un panino lì, 10.000 lire, mezza di faccia, mezza panino, ma questo qua è male, che la prossima usa non li bidi più. Infatti è così, succede così. Ne approfittano, cioè ti tirano le fregature di te, però non ci torni più, oppure ti organizzi e te la porti da casa la roba. No, di solito eravamo organizzati, perché quando vai così sei quasi sempre organizzato, però sai com'è, fai tappa qui, fai tappa lì, fai tappa là, poi arriva a un certo punto, ti viene a fame, sei a faccia a mare, e un panino te lo vuoi mangiare, però non credevo, io ho detto, un panino, anziché 2.000 lire, come in certi locali qui a Sassari, lo pagherai 5.000 lire, invece 10.000 franchi, la massa che ne deve fare, ma come vai a fare sempre che ne sono che potenti. Allora, io già non ne mangio mai di questi panini, mamma mia. Esagerati, che poco già. No, è così, cioè se io, tu lo sai come sono fatto io, no? Cioè se io dico, mi voglio bere una bottiglia di champagne, anche se costa 50.000 lire, so che una bottiglia di champagne costa 50.000 lire, buona notte al secchio, non me ne frega niente, non guardo le 50.000 lire. Però che uno va lì e un panino lo fai pagare 10.000 lire, che a lui quando gli è costato molto gli è costato 300 lire, cioè hai capito, è una rapina vera e propria. E non è che mi è sceso tanto giù, è perché quando sono andato a Carlo Ponte, anche se io sono andato per lavoro, non è che stavo facendo mica il turista, no? Ho dormito in albergo, poi la sera appena arrivato, dopo tanti chilometri, ho detto vai che andiamo a mangiare. Io ho guardato il menù, non è che ho guardato, la colpa è stata anche mia perché non ho guardato i prezzi. Però io ho detto un antipasto, una piccola pasta asciutta, una bistecca con un'insalatina e un caffè. Beh, quando ho guardato la Fiorentina era a 2 che hai sbagliato, eh? Ciao Antonello, ciao Mario, ciao Roberto. cosa ti devo dire? Auguri allora per la signora, spero ci rimetta il più presto possibile, ci vedremo anche in verticale, qualsiasi cosa, lo sai, un colpo di citofono, non ci sono problemi. Ciao a tutti, buonanotte, saluto anche gli amici che sono in ascolto, e se vedo più alle complici. Il microfono per Roberto, ascolto il finale e poi chiudo, KK. Claudio. Voi. Fra 6 mesi siamo vicini di casa, me. Auguri per i maschi. Va bene, non c'è problema. Ti siamo sempre comportati doverosamente bene. Non problema, Antonio. Lo sai, non problema. Da parte mia non problema. Poi, se da parte tua ci sono problemi, sappi che ho fatto già il cambio di kilowatt, quindi l'Enel a tempo minimo è già attivo. Non è per quello, no. Il discorso è un altro. Quindi cerca di avere appetito, perché ci saranno bistecche e sardine. Non è importante di cambiare. Ah, va bene, va bene. Non c'è problema. Però saremo le buone forchette come vecchi tempi, Antonio. D'accordo, ci cammina più. Qui non c'è problema. Avanti tu, vedi tu cosa vuoi fare. Obiettivi con me solo con quello che mangi, già lo sai. Ma c'è problema da te. Non abbiamo mai bisticciato in 30 anni, figurati ci bisticciamo per così poco. Vuol dire che risolveremo il muro, quello caduto, cosiddetto di Berlino, e faremo la barca Brancaleone tra me, Roberto e te. Va bene, riprendi, va bene, ascolto il finale e poi chiudo. Ciao cara, grazie per gli auguri a mia moglie e buonanotte e buon lavoro per domani, ciao ciao. Interrompo anche io, saluto anche Antonello, a Maria, a tutti quelli che stanno ascoltando. Alla prossima, ciao ciao a tutti. Ciao, vabbè, ci sentiamo. Saluto di moglie da parte mia, eccetera, eccetera. Ciao ragazzi, buon proseguo, vai Mario. Buonanotte, buon 144 qua, per tale prossime. Anche per te, vabbè, 244, auguri per la signora e niente, eventualmente ci sentiamo per Barcia o per Baracco, non c'è problema, ciao ciao, buonanotte sogni d'oro, guarda un poco. Mi dica dottore, mi dica. Allora, cosa stai combinando? Perché non mi ha risposto già al telefono, cara morto. Spiega tutto perché, secondo te, io non te lo vedo, mi sono aumentato verso le 4, la verità, poi mi sono inviato verso la 1:30, questa sera, quindi vedi tu, passi Pasquetta. Cazzo, Pasqua, Pasquetta, ma sei dal baciato dal letto, e se me la prego che la Pasqua ti sei curicata a mezzanotte. E Pasquetta te l'hai fatta nel letto, io invece mi sono fatto Pasqua e Pasquetta, brutto cane morto, e mi sono coricato lo stesso tardi, perché mi sono coricato a mezzanotte e mezzo, così che problema c'è? Niente, infatti ho telefonato pure a Stefano, e invece Stefano deve essere che non è riuscito ad entrarti, e sono si pigliato nel QSO anche tu. KK, dovevo fare un mucchio di cose, qui, lì, boom, batti, là, e la moglie gli si è gaggando. Non preoccupati, ce l'hai giusto. Però io ti mi sono sbagliato, perché non tiro la vita, sì, comunque. Avete sbagliato all'1:30, è vero, perché non è balla. A questo punto, non si è neanche sentito la verità, si è schivato il telefono. Ero morto stamattina. Comunque, pazienza, non vuol dire niente. Purtroppo ho avuto la vita un collasso di sonno, di divertimento, uno che mai ha avuto vita mia fino a là. No. Io infatti mi sono divertito perché sei operato bene, gli altri ti sto dicendo, quindi è stato che è bene. Poi adesso viene i giorni del lavoro, quindi sono libero, tranquillo, nessun problema, se c'è su questo da fare si fanno, non trovo bene. Quando vuoi. Ecco, lo sai perché anche io adesso sto lavorando, non è che possa fare chissà che cosa, io ci sono anche sabato e la domenica liberi, e boh, e poi sabato mattina lavoro ugualmente, tutto lì. Comunque non c'è nessun problema, è che avevo tolto quella bestiolina dal freezer e tu lo sai che una volta che si scongela lo devi cucinare e te lo devi pappare e mi tocca da fare una fusa, mi dà la giura. E se ti ho capito, non c'è problema. Io non ci ho nessuna scusa tra vita, perché ci avevo promesso che ci vedevamo, invece io non mi sono aumentato le altre, è mezzo del mattino. Ho bevuto vino, birra, quello che era, eh? Agnello, pasta al forno, tu immagini tu come c'avevo io. Verso l'1 e mezzo lo stomaco, quindi poi mi sono alzato, mi sono fatto la doccia. Dico, la gente poi stasera, c'è una cosa dell'altra, tanto, e quindi vabbè, la verità non c'è nessun perdono, però c'è una tenuante che ero in festa, tutto lì. Poi la prossima volta ci facciamo, si fa una festa del genere, la verità, si fa tutto quanto assieme, ci sentiamo, ci hanno il posto, se chi non vuole, venga a firma. Vabbè, non c'è problema, io te l'ho detto così perché, cioè io quando dico una cosa è quella lì, è buca. E penso che anche gli altri siano come me, anche se poi non è vero. Tutto lì. Comunque, non fa niente, no? Adesso vado a fare visita alla negra che mi devo comprare le sigarette, loro sono parcheggiati lì. Ascolta, aspetta di salire, non faccio lì quella la settimana scorsa, me, te lo sai, non voglio recuperarti la sacchetta al muro, No, non ci sono né scalini né niente, io arrivo lì, faccio un'inversione, mi fermo la macchinetta, mi piglio le sigarette, poi me ne ritorno a casa e mi ci curico, anche perché io dormo poco e la sigaretta me la fumo. Vabbè, già. Sentimo, quando vuoi il mio numero già ce l'hai, se mi vuoi chiamare mi chiami, se no a me è da te. E per lo stereo quando è che me lo dai? Non preoccuparti per quello, che tu lo sai. E sopra il tavolo lo stereo, non si è trovato un giorno, quando prima di Pasqua addirittura, sopra il tavolo. No, no, ho trovato un casino. Ho trovato l'arma a posto, quindi non c'è problema. No, per quello che è quello, già ci vediamo, già facciamo anche molto prima di quello che pensi tu. Vabbè, voglio vedere se sei di parola. Guarda che poi mi deve sistemare anche quel microfono, che appetto mi hai. E niente, poi quando vogliamo andare a mangiarci una pizza, ci organizziamo. E andiamo a mangiarci la pizza. E vabbè Mario, non è come adesso perché voglio più che stare in soldi. Poi metto punto uno di qua, a posto sono. Tanto ciò e ci vediamo, se può fare qualcosa. E ti chiamo io. Vabbè, devi farti sentire. E non fare il cane morto che ogni tanto sparisci. E non sappiamo ma quando se sei vivo o se sei morto, va buona, io vado a prendere le sigarette perché le ho finite. Ci sentiamo alle prossime là, ciao, buonanotte, buon riposo e auguri anche se oramai è tutto passato a te e alla signora. Sì, signora Lombita, va bene. Ciao a te tanto Mario, alle prossime. Auguri anche a te, la Davide fa gli auguri a parte mia. Eccetera, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,